Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È iniziata la seconda parte di Eclettica con Kelly Stoltz. Your Reverie, il titolo del brano estratto dal suo ultimo per Sub Pop, dove la prima si era invece chiusa con Vetiver You May Be Blue, nuovo remix, Neighbors Remix, dal suo album ormai di parecchio tempo fa. Invece prima Our Brother the Native, il trio di giovanissimi da Flint, Michigan, passati la prima volta la scorsa settimana con As They Fell Beneath Us, brano che subito ha lasciato il segno. Infatti sono subito arrivati mail a giulia@radiorockfm.com per avere ulteriori dettagli su questo trio statunitense. Si prosegue ora invece con una delle novità italiane che avevo annunciato in inizio di questa trasmissione, che ritroverete di puntata in puntata durante tutta la settimana. È arrivato quello che sarà il nuovo album di Paolo Benvenu. Dopo l'EP dell'autunno scorso arriva anche l'album Le Labbra, annunciato con una grafica che richiama quella dell'EP, un album che contiene 11 tracce, ma è talmente bella la prima che io l'ho messa in repeat e non sono andato avanti ad ascoltare quelle successive, ascolti che mi farò nei prossimi giorni. Però per un po' sicuramente nelle playlist di Eclettica troverete scritto Paolo Benvenu, La Schiena. Tutti i respiri che ho sono per te, tutti i respiri che hai. È così che ogni goccia di me scava la tua schiena lentamente, con un ritmo costante.

Le sorelle della pietà non sono morte o andate via. Stavano aspettandomi mentre pensavo di non poter più essere in grado di proseguire. Mi offrirono la loro serenità e questa canzone. Spero tu corra da loro, tu che stai viaggiando da così tanto tempo. Devi lasciare ogni cosa che non riesci a controllare, iniziando dalla tua famiglia, fino ad arrivare alla tua anima. Io sono stato dove ora stai impiccandoti e penso di poter vedere il modo in cui lo stai facendo. Quando non ti senti benedetto, la solitudine suggerisce che hai peccato. Loro si sdraiarono al mio fianco ed io mi lasciai confessare. Toccarono entrambi i miei occhi ed io toccai la rugiada sui loro lembi. Se la tua vita è una foglia che le stagioni consumano e condannano, loro ti stringeranno forte con un amore aggraziato e verde come un gambo. Quando me ne andai, stavano dormendo ancora. Spero tu corra subito da loro. Non accendere le luci. Puoi leggere il loro indirizzo usando i raggi della luna. Non avere timore. Non sarò geloso se saprò che ti avranno addolcito la notte. Non eravamo amanti a questo modo. E comunque rimarrebbe ancora tutto perfetto. Questa era Sisters of Mercy di Leonard Cohen. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, LA, I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. He ended up, like so many of them do, back on the streets in New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on. Ci sono anche le vostre parole, in certi casi allegre, in altri casi invece crude, ma me le tengo per i prossimi giorni. Per quest'oggi lascio solo lo spazio alla musica, musica che ci porterà alla conclusione di Eclettica e musica che ci ha portati fino a qua, come quella di Nick Cave, che si è appena chiusa, o quella dei Fuck Buttons, Sweet Love for Planet Earth, nel caso qualcuno che all'ascolto di Eclettica ancora non la conosca. Musica come quella che sta per arrivare, vi dicevo, ovvero sia quella di Supergrass, che uscirà in Inghilterra il 17 di marzo per Parlophone, e invece il 15 di aprile per Astral Works negli Stati Uniti. Un album che è il loro sesto, Diamond Uha, e questo è il titolo della formazione di Oxford, dal quale vado ad estrarre un pezzo intitolato Bad Blood. Loro sono i Supergrass. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 18, volume numero 1, indice, Get Well Soon, The May Shy, Brad Brick, Our Brother the Native, Vetiver, Kelly Stoltz, Paolo Benvenu, Fuck Buttons, Nick Cave, Supergrass. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.